Capitolo 13. Insomma, Gilbert, mi piacerebbe che tu fossi più misurato, mi disse mia madre una mattina dopo una rispostaccia che mi sentì dare a qualcuno. Continui a dire di stare bene, a sostenere che non sia successo nulla, eppure non ho mai visto nessuno più irascibile di come sei tu ultimamente. Sei sgarbato con tutti, amici ed estranei, con i tuoi pari e con i tuoi subordinati. Preferirei che provassi a controllarti di più. Controllarmi su cosa? Sul tuo stato d'animo. È bruttissimo vederti così, lo sai? Anche perché tu, se solo lo lasciassi venir fuori, hai il carattere migliore del mondo. La lasciai parlare e tirai fuori un libro che aprii sul tavolo fingendo di leggerlo. Non sapevo come giustificarmi e non volevo riconoscermi in difetto. Lei intanto continuò a farmi domande e poi si mise ad accarezzarmi la testa. Ero a un passo dal sentirmi di nuovo un bravo ragazzo quando quel dispettoso di mio fratello mi provocò gridando «Non lo toccare, mamma, potrebbe morderti! È una tigre umana! E io, per quel che mi riguarda, ho già rinunciato a lui, ho gettato via tutto, radici e rami. Non mi avvicino a più di 6 metri. È una questione di vita o di morte!» Giorni fa per poco non mi rompeva la testa solo perché per tirarlo su di morale gli volevo cantare una canzone d'amore. «Gilbert, perché?» «Già, ma ti avevo chiesto di non fare confusione, Fergus. Io però ti ho spiegato che non avrei incomodato nessuno e appena sono partito con la strofa successiva mi hai spinto contro il muro con una tale forza che temevo di essermi spezzato la lingua e che da un momento all'altro avrei visto il cervello schizzare dappertutto. Poi mi sono toccato la testa, ho visto che non era rotta e ho pensato che fosse un miracolo. Del resto, poverino, gli hanno spezzato il cuore. Taci, adesso!» gli dissi alzandomi di scatto e guardandolo così male che mia madre temette che volessi davvero mettergli le mani addosso e mi fermò il braccio supplicandomi di risparmiarlo. A quel punto Fergus se ne andò tranquillo con le mani in tasca canticchiando «E fu così che per la sua bellezza...» eccetera. «Non voglio sporcarmi di certo le mani con lui», dissi per assicurare mia madre. «Non lo toccherei neppure con la punta di un bastone». Mi ricordai che avrei dovuto incontrare Robert Wilson per definire l'acquisto di un campo che confinava con la nostra fattoria, una questione che avevo rimandato da tempo perché non avevo interesse per niente e perché non avevo nessuna voglia di incontrare Jane Wilson e sua madre, sebbene ormai avessi ottime ragioni per dar credito ai loro pettegolezzi sul conto della signora Graham. Ma questo non me lo rendeva più simpatiche, e lo stesso valeva per Eliza Millward. L'idea di vederle mi irritava, anche perché non mi trovavo più in condizioni di rispondere alle loro maldicenze con lo stesso piglio. Tuttavia, quel giorno, ero determinato a tornare comunque al mio dovere. Certo, non mi faceva piacere, ma sarebbe stato meglio che restarsene con le mani in mano e di sicuro più produttivo. La vita non mi avrebbe concesso le gioie che desideravo, ma neppure mi offriva troppe distrazioni. Decisi di mettermi a lavorare sodo, come una bestia, e tirare avanti sentendomi, se non soddisfatto, quantomeno non del tutto inutile, senza gioia, ma senza lamentarmi. Così, pensando, mi avviai verso Raycote Farm, con quella che definirei una svogliata rassegnazione. Senza nutrire troppe speranze di trovare il proprietario a quell'ora, ma confidando che qualcuno potesse indicarmi dove cercarlo. Non c'era, infatti, ma era atteso di lì a poco. La signora Wilson mi fece accomodare in salotto mentre lei tornava in cucina. La stanza non era vuota. Entrando vidi che c'erano sedute a chiacchierare Jane Wilson ed Eliza Millward e per un soffio non feci un balzo indietro. Ma volevo dimostrarmi tranquillo ed Eliza sembrava della stessa opinione. Non ci vedevamo dalla sera della nostra festa, eppure non colsi nel suo sguardo alcuna emozione, bella o brutta, nessun pathos, nessuna amarezza. Di fatto, sembrava serena, più di quanto riuscissi a mostrarmi io. Ma nei suoi occhi vidi anche ostilità, e da quello capii che non mi aveva affatto perdonato. Non sperava più di potermi avere tutto per sé, magari, ma non aveva smesso di detestare la sua rivale e godeva a sfogare i suoi malumori su di me. Jane Wilson fu gentile e cordiale e, malgrado io non fossi troppo in vena di chiacchierare, le signorine seppero mantenere viva una certa conversazione. Eliza approfittò della prima occasione per chiedermi se avessi visto la signora Graham ultimamente. Lo chiese in tono leggero e disinvolto, ma con uno sguardo malizioso che traboccava di tutto il suo rancore. Non di recente, replicai, cercando di mantenermi impassibile, respingendo i suoi odiosi sguardi. Sentii che stavo arrossendo, nonostante i miei sforzi. Ma non mi dite, vi siete già stancato di lei? Avrei detto che una persona tanto nobile avrebbe tenuto desta la vostra attenzione per un anno almeno. Preferisco non parlare di lei in questo momento. Dunque, vi siete ricreduto? Avete capito che la vostra dea non era in fondo tanto pura? Signorina Eliza, vi ho appena detto che preferisco non parlare di lei. Mi scuso, a quanto pare le frecce di Cupido erano ben acuminate e vi hanno lasciato ferite tanto profonde che ancora sanguinate a solo sentirla nominare. Oppure, intervenne Jane Wilson, il signor Markham preferisce che il nome di una donna simile non venga pronunciato in presenza di ragazze oneste. Perché Eliza ti ostini a nominarla quando il suo nome risulta tanto sgradevole a tutti? Erano insopportabili. Mi alzai e stavo proprio per mettermi il cappello e andarmene da quella casa sdegnato, quando mi fermai a considerare quanto sarebbe stato folle un tale comportamento e quali conseguenze avrebbe avuto. Avrei dato alle mie affascinanti torturatrici l'occasione di ridermi alle spalle. E solo per qualcuno che, potevo riconoscerlo ormai, non meritava un tale sacrificio. Nonostante il ricordo della mia ammirazione e del mio amore per lei fosse ancora così vivo in me che non sopportavo di sentirne parlare male. Andai alla finestra, quindi, e dopo aver cercato di dominare al meglio i sentimenti che mi agitavano, il cuore, dissi a Jane Wilson che di suo fratello non c'era nemmeno l'ombra, che non avevo tanto tempo a disposizione e che sarei tornato il giorno dopo quando fossi stato sicuro di trovarlo. Oh no, vedrete che arriverà momenti. Deve andare al mercato per affari e prima di partire avrà bisogno di mangiare qualcosa. Accettai di aspettarlo ancora, quindi, e per fortuna non mi toccò un'attesa troppo lunga. E il signor Wilson arrivò quasi subito e, per quanto poco me ne importasse degli affari e del campo, riuscii a restare concentrato sull'argomento con ammirevole tenacia e conclusi la trattativa velocemente. Dopodiché mi allontanai con sollievo da quella casa per tornare dai miei tutori. Li lasciai a lavorare sul fianco della collina e proseguii per andare a controllare un campo di grano poco più in là. Quel giorno però non ci arrivai, dato che mentre salivo vidi in lontananza la signora Graham e suo figlio che scendevano per quello stesso sentiero. Anche loro mi avevano visto e Arthur mi stava già correndo incontro, ma io mi voltai di scatto. Avevo deciso di non voler mai più incontrare sua madre e cercai quindi di ignorare la vocina che mi gridava: Aspettate! Aspettate! Dopo un po', forse richiamato dalla madre o vedendo che non riusciva a raggiungermi, si scoraggiò. Quando qualche minuto dopo mi guardai alle spalle, non c'era più nessuno. Questo episodio mi turbò moltissimo e non saprei neppure spiegare di preciso perché, a meno che tu non voglia spiegarlo dicendo che le frecce di Cupido non solo erano acuminate, ma anche talmente uncinate che non ero stato capace di togliermele tutte dal cuore. Sia come sia, trascorsi il resto di quella giornata con una tristezza doppiamente profonda. Capitolo 14. La mattina dopo mi rammentai di avere anche io qualcosa da sbrigare al mercato e montai a cavallo di buon'ora. Era una giornata grigia e piovigginosa, ma mi andava bene, era più adatta al mio stato d'animo. Il viaggio probabilmente sarebbe stato solitario, perché non era giorno di mercato e la strada era in ogni caso sempre molto poco frequentata. Mi andava bene anche quello. Stavo procedendo al trotto quando sentii dietro di me un altro cavallo. Non mi feci troppe domande su chi potesse essere, né me ne preoccupai fin quando, arrivato a una lieve salita, non rallentai un po'. O meglio, lasciai che il mio cavallo procedesse a un'andatura più pigra. Ero perso nei miei pensieri e non mi preoccupavo troppo della sua velocità. Il mio compagno di viaggio mi raggiunse. Non era affatto un estraneo e infatti mi chiamò per nome. Era Lawrence. Sentii un fremito d'ira e le dita stringersi attorno alla frusta. Ma cercai di dominarmi e accelerai dopo avergli fatto un cenno di saluto. Anche lui però accelerò il passo e mi si mise accanto a conversare del più e del meno. Ridussi al minimo indispensabile i miei scambi con lui e infine rallentai. Rallentò a sua volta e mi chiese se il mio cavallo avesse qualcosa che non andava. Mi limitai a guardarlo e lui mi sorrise tranquillo. La sua insistenza mi meravigliava e metteva a dura prova la mia pazienza. Credevo che il nostro ultimo incontro l'avesse lasciato talmente turbato che mi avrebbe trattato per sempre con gelida distanza da quel momento in poi. E invece, non solo sembrava che avesse dimenticato le mie offese, ma sembrava non far caso neppure al modo scortese in cui lo stavo trattando. Un tempo bastava un accenno di freddezza nella voce per respingerlo, mentre adesso neppure la mia aperta maleducazione lo scoraggiava. Forse qualcuno gli aveva riferito della mia delusione ed era venuto a prendersi gioco di me. Strinsi di nuovo la frusta, ma mi trattenni di nuovo dal sollevarla. Continuai a procedere in silenzio, in attesa che mi desse un'occasione migliore di riversargli addosso tutta la rabbia che sentivo montarmi in petto. Markham, posso chiedervi perché, se qualcosa in un altro campo vi ha deluso, dovete per forza litigare con i vostri amici? Io in fondo vi avevo messo in guardia, ma voi non potete dire altro. Posseduto da un diavolo, strinsi la frusta dal lato sottile e lo picchiai veloce come un lampo sulla testa con l'altro lato. Con soddisfazione animalesca lo vidi impallidire, perdere un po' di sangue dal punto in cui l'avevo colpito e tremolare un poco sulla sella prima di cadere. Il pony, a sentirsi tanto repentinamente liberato del suo carico, scartò di lato, scalciò e poi andò a brucare un po' di erba per godere di quella libertà. E il suo padrone era a terra, immobile come un morto. L'avevo forse ucciso? Mi sentii il cuore stretto in una morsa di ghiaccio e mi chinai a guardare il suo viso pallido. Mosse le palpebre ed emise un lamento. Ah, ricominciai a respirare. Era solo rimasto intontito dalla caduta. Ben gli stava, così avrebbe imparato a comportarsi in maniera più consona in futuro. E ora? Dovevo aiutarlo a rimettersi in sella? No, l'avrei fatto se mi avesse offeso in altri modi, ma quel che mi aveva detto era talmente grave che si sarebbe rimesso in sella da solo. In fondo stava già riprendendosi e il suo cavallo era lì accanto che brucava. Con un insulto tra i denti e un colpo di sperone mi allontanai al galoppo lasciandolo lì. Provavo un misto di emozioni che non saprei interpretare, anche perché se lo facessi non ne verrei fuori in buona luce. Temo infatti che tra i sentimenti principali ci fosse una sorta di entusiasmo. Subito dopo la mia esaltazione iniziò a calmarsi e nel giro di qualche minuto tornai indietro ad aiutarlo. Non per generosità, né perché mi fossi ammorbidito, né perché avessi paura delle conseguenze che mi sarebbero toccate se l'avessi abbandonato, col rischio di peggiorare la sua condizione, ma solo per un richiamo della mia coscienza, cui risposi con prontezza, nonostante mi costasse molto, e ne fui orgoglioso. Sia Lawrence che il suo pony si erano leggermente spostati. Il cavallo si era allontanato di qualche metro e lui era riuscito a rotolare di lato per non stare proprio in mezzo alla strada. Si premeva il fazzoletto, ormai più rosso che bianco, sulla ferita. Un bel colpo, bisognava riconoscerlo, sebbene il merito fosse in gran parte da attribuire alla testa di cavallo in metallo montata in cima alla frusta. L'erba era bagnata e di certo non ideale per starci sdraiato. Aveva gli abiti sporchi di fango mentre il cappello gli era volato in una pozzanghera poco più in là. Era pallido e sembrava più che altro preoccupato per il suo pony. Continuava infatti a guardarlo con ansia. Scesi dal mio cavallo, lo legai a un albero e andai a raccogliergli il cappello per metterglielo in testa, ma evidentemente non pensava che la sua testa fosse in condizioni di indossare un cappello. O non pensava che quel cappello fosse in condizioni di essere indossato. Fatto sta che si scansò, afferrò il cappello e lo gettò di lato. Per te andrà più che bene, mormorai. Poi andai a recuperare il pony e ci riuscii abbastanza in fretta perché l'animale si era calmato e oppose solo poca resistenza finché non lo presi per le briglie. Adesso non restava che aiutarlo a rimontare in sella. Forza, canaglia, che non sei altro. Allungami una mano che ti aiuto a rimontare sul cavallo. Lui si voltò con aria sdegnata. Io cercai di prenderlo per un braccio e lui si scansò subito, come temendo di potersi contaminare solo toccandomi. Ah, non ti va? Ebbene, per quel che me ne importa, puoi rimanere qui fino al giorno del giudizio. Ma immagino che non vorrai dissanguarti, quindi ti benderò la ferita. Lasciami stare, per favore. Ma per me puoi anche andartene al diavolo. E digli che ti mando io. Prima di andarmene, fissai la briglia del pony a un appiglio nella siepe e gli lanciai un fazzoletto pulito, che lui prese solo per tirarmelo dietro con odio e con le poche forze che gli erano rimaste. Per parte mia, continuai a snocciolare insulti e lo abbandonai al suo destino, soddisfatto di aver comunque fatto il mio dovere tornando indietro, dimenticando certo quel che gli avevo fatto prima e anche il modo odioso con cui gli avevo offerto il mio aiuto. Dovevo prepararmi ad affrontare le conseguenze del mio gesto, poteva anche andare a dire in giro che avevo tentato di ammazzarlo, chissà. In fondo aveva rifiutato la mia offerta di aiuto, animato da un sentimento di vendetta. Rimontai dunque a cavallo e prima di andarmene mi girai a vedere come se la stava cavando. Si era alzato e con la criniera del suo pony in mano stava cercando di tornare in sella. Un attacco di nausea o un giramento di testa scoraggiarono il suo primo tentativo e anche il secondo andò a vuoto e Lawrence finì di nuovo a terra, sul ciglio della strada, sdraiato come fosse in casa sua, a riposare sul divano. Avrei dovuto aiutarlo, anche se non voleva, bendargli la ferita che non smetteva di sanguinare e riportarlo a casa. Ma a frenarmi, oltre alla rabbia, c'era anche l'imbarazzo di cosa avrei dovuto dire ai suoi servitori e alla mia famiglia. Avrei dovuto confessare ed essere preso per pazzo, oppure non dire nulla o inventarmi una bugia, ma sarebbe stato inutile, perché prima o poi la verità l'avrebbe raccontata a lui, peggiorando la mia situazione. A meno di non voler contare sull'assenza di testimoni e insistere con la mia versione, facendolo passare per un mascalzone ancora peggiore di quel che era. Ma via, era solo una ferita alla testa e qualche livido per la caduta o al limite per un calcio del cavallo. Poteva sopravvivere senz'altro, anche se fosse rimasto lì da solo qualche ora. E nel caso in cui non ce l'avesse fatta da solo, di certo qualcuno sarebbe passato da lì in tutto il giorno. Quanto a quel che avrebbe raccontato, ebbene, sarei stato al gioco. Mi sarei difeso da accuse menzognere e avrei cercato di incassare il colpo se invece avesse detto la verità, senza per forza dover dire chissà che. Ma era anche possibile che avrebbe deciso di non raccontare proprio niente, per evitare di doversi soffermare sulle ragioni della lite e attirare l'attenzione di tutti sulla natura del suo rapporto con la signora Graham, che evidentemente, per interesse suo o di lei, preferiva tener nascosta. Preso da queste riflessioni, giunsi in città e sbrigai le mie faccende più altre commissioni per conto di mia madre e di Rose. E me la cavai piuttosto bene, considerando le circostanze. Sulla via del ritorno mi affliggevano alcune ansie circa il povero Lawrence. E se l'avessi trovato ancora lì, fradicio, a morire di freddo, o già morto? E più mi avvicinavo al punto in cui l'avevo lasciato, più l'ansia si faceva pressante. Grazie al cielo non c'erano più né lui né il suo pony. E sulla scena non era rimasto nulla che potesse incastrarmi, a parte due oggetti in realtà piuttosto sgradevoli a vedersi: il cappello fradicio, infangato e rotto per quel dannato colpo di frusta, e il fazzoletto rosso di sangue che galleggiava in una pozzanghera, giacché nel frattempo aveva piovuto parecchio. Le brutte notizie viaggiano veloci. Feci appena in tempo ad arrivare a casa per le 4 del pomeriggio che mia madre mi disse gravemente: Gilbert, è successa una tragedia. Rose era andata a far la spesa e ha sentito che il signor Lawrence è stato disarcionato e hanno dovuto portarlo a casa, che era in fin di vita. Naturalmente la cosa mi turbò, come potrai capire, ma mi rassicurai un po' nel sentir loro dire che si era fratturato il cranio e rotto una gamba, poiché sapevo bene che non era vero. E quindi seppi che ogni altro terribile particolare era in realtà un'esagerazione della cosa. Anzi, a sentir parlare in tono tanto drammatico e angosciato, ebbi quasi la tentazione di raccontare la verità, almeno quella che conoscevo io. Domani dovrai andare a fargli visita, disse mia madre. Se vuoi, anche oggi è ancora presto, e se il tuo cavallo è stanco, puoi prendere il pony, disse Rose. Vuoi farlo, Gilbert? Magari dopo aver messo qualcosa sotto i denti? Ma no, come possiamo essere sicuri che sia vero? È impossibile. Ma ne parlano tutti, ne siamo sicure. Io personalmente ho parlato con due persone che avevano parlato con due persone che avevano parlato con quello che l'ha trovato. Sembra impossibile, ma è vero. Ma Lorenz conduce bene il cavallo e non può essere caduto così, né essersi ridotto in quel modo solo per una caduta. A me pare che sia una grossa montatura. Pare che il cavallo gli abbia dato un calcio. Ma come, quel pony così mansueto? Come fai a sapere che era proprio il pony? Beh, in genere cavalca quello. Ebbene, in ogni caso domani andrai a trovarlo. Esagerato o meno, vogliamo sapere come sta. Non può andarci Fergus? E perché non tu? Lui è più libero, io ho da fare. Ma come puoi essere tanto freddo, Gilbert? Potrai ben interrompere i tuoi affari per un paio d'ore davanti a una simile circostanza. Il tuo amico in fin di vita. Ma no, che non lo è. Per quel che ne sappiamo, è possibile che lo sia invece. E sarà comunque stato un brutto incidente. Tu devi andare a fargli visita. Se non lo fai, ci resterà male. Per la miseria, non posso andarci. Inoltre, lui e io non eravamo in buoni rapporti ultimamente. Ma ragazzo mio, non sarai tanto crudele da lasciare che i vostri malintesi. Malintesi? Esclamai. Però considera le circostanze. E va bene, ora facciamola finita, vedrò il da farsi, dissi infine. E il da farsi fu spedire Fergus l'indomani mattina a trovare Lawrence, con gli omaggi di mia madre e tutte le domande del caso. Mi guardai dal fargli avere un mio messaggio, dall'andare a trovarlo. Mio fratello tornò e disse che Lawrence era a letto con una ferita alla testa e altri acciacchi, tutto per via di una caduta che non aveva raccontato nel dettaglio e della reazione del cavallo. Aveva anche un forte raffreddore per essere rimasto tanto a lungo sul bagnato e sotto la pioggia, ma nessuna frattura e nessuna sentenza di morte nell'aria. Dunque, mi fu chiaro che per proteggere la signora Graham, Lawrence non si sarebbe esposto, accusandomi apertamente. Capitolo 15. Anche il giorno dopo fu altrettanto piovoso, ma in serata il cielo cominciò a schiarirsi e il mattino successivo era sereno. Mi trovavo in collina con i miei tutori, soffiava una brezza leggera e la natura era beata e illuminata dal sole. Una lodola cantava allegra tra le nuvole. La pioggia aveva lasciato un'aria fresca e pulita, un cielo terso e boccioli sui rami e sugli steli così lucidi e belli che neppure i contadini avevano il coraggio di maledirla. Il mio cuore però restava nascosto a ogni raggio di luce. Nessun refolo di vento poteva rinfrescarlo. Niente poteva colmare il grande vuoto lasciato dalle attese e dalla fiducia che avevo riposto in Helen Graham, né tener lontano il dolore ancora vivo della mia delusione d'amore. Me ne stavo fermo a osservare i campi morbidi di Gran Turco ancora intonsi, quando sentii qualcosa tirarmi i vestiti e una vocetta ormai sgradita al mio orecchio che diceva: «Signor Markham, mamma vi vuole». «Mi vuole, Arthur?» «Sì, ma perché quell'espressione strana?» mi domandò un po' allegro e un po' turbato dal mio sguardo che di sicuro non si aspettava. «E perché non vi siete più fatto vedere? Venite con me, venite!» «Al momento ho da fare», risposi, perché non mi veniva in mente altro. Lui mi guardò, stupito, dal basso verso l'alto, e prima che potessi aggiungere qualcosa, la signora in persona mi aveva raggiunto. «Gilbert, ho bisogno di parlarvi», disse, malcelando una certa urgenza. La guardai. Aveva gli occhi lucidi, era pallida. Non risposi. «Solo un momento, non voglio trattenervi a lungo», disse. «Spostiamoci più in là», aggiunse, notando il modo in cui i miei tutori la stavano guardando. La seguii. «Arthur, tesoro, perché non vai a cogliere un po' di campanule?» E gli indicò alcuni fiori che crescevano lungo la siepe che stavamo costeggiando. Il piccolo sembrava non volersi staccare da me, al che lei lo esortò: «Coraggio, amore, vai!» con un tono dolce ma determinato al quale il bambino ubbidì. «Dunque, signora Graham?» le chiesi con distacco. Avevo capito come fosse in ansia e mi dispiaceva vederla così, eppure ero contento di poterla tormentare. Mi guardò dritto negli occhi, arrivandomi al cuore, e mi disse: «Non voglio sapere le ragioni del vostro atteggiamento. Tuttavia, per quanto non mi pesasse che chiunque altro mi parlasse dietro, da voi non riesco proprio ad accettarlo. Perché non siete venuto a sentire le spiegazioni che avevo promesso di darvi quel giorno?» «Perché nel frattempo ho avuto modo di sapere in anticipo quel che mi avreste raccontato, e forse anche di più. Questo è impossibile. Io vi avrei detto tutto», mi disse con veemenza, «ma non lo farei più adesso, poiché non ne siete più degno, a quanto vedo». Le tremavano le labbra. «Ah no? E perché mai?» accolse la mia ironia con uno sguardo sprezzante. «Perché perché evidentemente non avete mai capito nulla di me, altrimenti non avreste prestato ascolto a chi mi calunniava. Sarebbe una fiducia mal riposta, vedo che non siete l'uomo che avevo creduto. Andatevene, non mi importa quel che pensate di me. Lei si girò e io me ne andai, sicuro che quel mio gesto sarebbe stato il più difficile per lei da sopportare, e in effetti avevo ragione. Quando mi voltai a guardarla dopo un minuto, vidi che si era girata, aspettandosi che fossi ancora lì, e non trovandomi, aveva abbassato a terra uno sguardo carico di angoscia e disperazione, più che di rabbia. Io mi mostrai indifferente, fingendo di guardarmi attorno. Subito dopo si allontanò, come mi accorsi, tornando a guardare in quella direzione per capire se volesse raggiungermi o richiamarmi. Ma era già lontana, con il figlio che le correva dietro cercando di parlarle, o almeno così mi parve, mentre lei sembrava voler evitare che la vedessi in volto per nascondergli qualche emozione che non riusciva forse a controllare. Tornai ai miei affari. Presto mi pentii di aver interrotto tanto presto il nostro colloquio. Mi amava, era chiaro. Forse era stufa di Lorenz e voleva sostituirlo con me, e se non l'avessi amata così profondamente, quella nuova preferenza mi avrebbe fatto felice. Invece ormai il contrasto tra sentimenti, atteggiamento e opinioni passate e presenti era troppo doloroso e non lasciava spazio ad altre emozioni. Inoltre, ero curioso di sapere quale sarebbe stata la spiegazione che mi avrebbe fornito allora e quale ora, se avessi insistito un po'. Cosa mi avrebbe detto e come si sarebbe giustificata? Volevo sapere con chiarezza cosa apprezzare e cosa no di lei, cosa amare e cosa detestare. E soprattutto volevo sapere. Volevo vederla ancora una volta per stabilire come avrei potuto ricordarla in futuro. Di sicuro mi aveva perduto per sempre, ma almeno non avrei dovuto sopportare la pena di averle detto addio in modo tanto brusco e triste. L'ultimo sguardo che mi aveva rivolto mi aveva trafitto il cuore e non potevo dimenticarlo. Era uno sciocco, mi aveva ingannato, offeso, aveva distrutto ogni possibile futura felicità. Eppure l'avrei incontrata, mi dissi, ma non quel giorno. Lascerò che si tormenti sui suoi peccati fino a domani, e domani la incontrerò e scoprirò qualcosa in più su di lei. Forse vedermi le sarà utile, forse no, ma di certo porterà un brivido a questa vita che lei stessa ha tramortito per sempre, e magari placherà qualche angoscia. E così, il giorno seguente, dopo aver terminato il lavoro, verso sera andai a trovarla. La luce del tramonto si rifletteva sulle finestre e donava alla villa un aspetto allegro, che di certo non le apparteneva. Non serve che descriva con che cuore tornai in quel luogo, il tempio della mia dea, così pieno di cari ricordi e di speranze ormai rovinate dalla terribile verità. Rachel mi condusse in salotto e andò a chiamare la signora. Sul tavolino accanto alla poltrona era rimasto aperto un libro. La sua piccola selezione di libri mi era familiare quanto la mia, ma quel volume non l'aveva mai notato. Si intitolava Ultimi giorni di un filosofo di Sir Humphry Davy, e sulla prima pagina c'era scritto Frederick Lawrence. Chiusi il libro e l'aspettai con le spalle al camino, sicuro che sarebbe arrivata. Infatti, di lì a poco sentii i suoi passi in corridoio. Iniziò a battermi forte il cuore, ma cercai di ricompormi almeno esteriormente. Mi accolse con tranquillità. A cosa devo il piacere di una vostra visita, signor Markham? Mi chiese con una severità che mi colse di sorpresa. Tuttavia, trovai la sfrontatezza di risponderle. Sono qui per ascoltare quel che avevate da dirmi. Ma vi ho già detto che non vi avrei fornito quelle spiegazioni, rispose, perché non siete più degno della mia fiducia. Come volete, dissi facendo un passo verso la porta. Un attimo, mi chiamò, non andatevene così, questa è l'ultima volta che vi vedo. Allora restai lì, in attesa che si spiegasse, infine. Perché avete creduto a quelle maldicenze? E chi è stato a parlarvene? E cosa vi hanno detto? Esitai. Lei mi guardò con fermezza, sicura della sua innocenza. Voleva sapere, era determinata ad affrontare l'argomento con audacia. Posso scoraggiarla senza difficoltà, mi dissi. Mi sentivo eccitato come un gatto che si prepara a tormentare un topo. Le mostrai il libro che avevo ancora in mano, indicai il nome scritto sulla prima pagina e chiesi: Conoscete questo signore? Certamente, replicò arrossendo leggermente, forse per imbarazzo, più probabilmente per rabbia. E con questo? Quando l'avete visto l'ultima volta? Ma chi vi dà il diritto di farmi la morale su questo argomento o su qualsiasi altro? Nessuna morale. Potete rispondermi oppure no? Avete saputo cosa è successo al vostro amico qui? Se non lo sapete, non accetterò i vostri insulti, signor Markham, gridò. Se siete venuto qui per questo, ve ne potete andare anche subito. Non sono qui per gli insulti, no. Sono venuto a sentire le vostre spiegazioni. Come vi ho già detto, non ve le darò, rispose camminando su e giù per la stanza in preda all'agitazione, torcendosi le mani con l'affanno e lampi di rabbia negli occhi. Di sicuro non ho intenzione di fornire spiegazioni a chi è capace di scherzare su certe maldicenze, anzi, è addirittura incline a prestarvi fede. Ma io non scherzo affatto, le risposi senza più sarcasmo, con il cuore in mano. E non sapete quanto vorrei trovare quelle voci divertenti. Ma sono stato un tale sciocco a non voler vedere quel che minacciava di rovinare la fiducia che avevo riposto in voi, finché ho potuto constatare con i miei stessi occhi quanto mi fossi illuso. E in che modo, signore? Ebbene, ve lo racconterò. Ricorderete l'ultima sera in cui sono stato qui. Sì? Se fossi stato più lucido, avrei colto già nei vostri discorsi qualche indizio della verità. E invece ho voluto continuare a credere in voi, a sperare. Dopo essermene andato, tale era l'affetto che nutrivo per voi che, pur senza volermi palesare per imporvi la mia presenza, tornai indietro perché la tentazione di guardarvi dalla finestra era troppo forte e volevo sincerarmi del vostro stato, dato che vi avevo lasciata tanto triste e mi sentivo in parte responsabile. Sapevo di essermi comportato con impazienza e senza tatto e la punizione che sopportai in seguito quella sera fu senz'altro abbastanza severa. Dopo pochi istanti che ero tornato vicino alla villa, siete uscite in giardino con il vostro amico. Ho preferito restare nascosto e ho aspettato che mi superaste prima di andarmene. E cosa avete sentito? Ho sentito a sufficienza, Helen, e per fortuna. Nient'altro, infatti, mi avrebbe potuto liberare dall'affetto che provavo per voi. Avevo sempre detto che mai e poi mai avrei creduto a una sola parola contro di voi che non fosse pronunciata da voi stessa. Ho sempre considerato quelle insinuazioni come delle calunnie, sicuro che avreste saputo spiegare, volendolo, certi particolari effettivamente misteriosi della vostra situazione. La signora Graham si fermò di lato al camino, di fronte a me, tenendosi il mento con il pugno. Non sembrava più arrabbiata, ma quasi animata da una nuova luce negli occhi. Ogni tanto mi guardava. Poi fissava la parete davanti a sé, poi il tappeto. Avreste fatto meglio incontrarmi e sentire quel che avevo da dirvi. È stato scorretto da parte vostra allontanarvi da me in modo così improvviso e senza spiegazioni, subito dopo esservi dichiarato tanto affezionato a me. Avreste fatto meglio a parlarmi, quindi, anche a insultarmi. Qualsiasi cosa sarebbe stata migliore di questo lungo silenzio. E perché? Non avreste certo potuto farmi cambiare idea, né smentire quel che avevo sentito con le mie stesse orecchie. Preferivo interrompere immediatamente ogni rapporto, come avevate previsto che sarebbe accaduto una volta che mi aveste rivelato tutto, in fondo. Sì, è vero, mi avete danneggiato, un danno che non potrete riparare voi né nessun'altra. Avete calpestato la freschezza e le speranze della gioventù e trasformato la mia vita in un deserto. Non mi basterebbero 100 anni per smaltire le conseguenze di questo colpo. Non dimenticatelo. Ma voi state sorridendo, signora? Smisi di parlare, sbigottito dal fatto che di fronte a una tale appassionata descrizione di quanto mi avesse rovinato la vita, ella stesse sorridendo. Ah, sì, chiese stupita, alzando lo sguardo su di me. Se è così, non l'ho fatto certo per compiacermi del male che vi ho fatto, credetemi. Solo immaginare che potesse accadere è sempre stato un tormento per me. Ma sorridevo forse per la gioia di scoprire che in fondo non mi ero poi tanto sbagliata a giudicarvi, che siete un uomo profondo. E poi per me, lacrime e sorrisi sono affini, e nessuno dei due è riservato a un sentimento piuttosto che a un altro. Mi capita di piangere di felicità e sorridere quando mi sento triste. Mi guardò, forse aspettandosi una risposta, ma io restai in silenzio. Vi renderebbe felice sapere di aver tratto le conclusioni sbagliate? Mi chiese. Che domanda mi fate, Helen? Non che sia in condizioni di potermi definire innocente, aggiunse con il cuore che batteva forte, visibilmente, ma vi farebbe piacere sapere che sono migliore di quanto mi giudichiate? Qualsiasi cosa possa contribuire a farmi tornare sui miei passi, a spiegare il rispetto che ancora nutro per voi e a sollevare il dolore che provo, sarebbe più che ben accetta. Aveva il volto in fiamme e tremava in tutto il corpo. Andò di corsa alla scrivania, in silenzio, prese un pesante album, strappò le ultime pagine e mi mise in mano il resto. Mi disse: Non serve che lo leggiate tutto, ma portatelo via. Poi se ne andò. Avevo già imboccato il vialetto quando mi richiamò da una finestra aperta. Restituitemelo appena l'avrete letto e non fatene parola con nessuno. Conto sul vostro onore. Non feci in tempo a risponderle che già aveva chiuso la finestra. Vidi che si gettava sulla sedia in legno di quercia con il volto tra le mani. Evidentemente era talmente tesa che aveva bisogno di sfogare la tensione con le lacrime. Ero in preda all'impazienza. Non sapevo come governare le mie speranze. Giunsi a casa di corsa e salii in camera con una candela, malgrado ci fosse ancora un po' di luce fuori. Chiusi la porta a chiave per non essere disturbato o interrotto. Seduto al tavolo, mi tuffai nel mio prezioso tesoro, lo sfogliai, leggendo qualche frase qua e là, e poi cominciai dal principio. Ce l'ho ancora qui, davanti, e anche se per te non riveste di certo l'importanza che ha per me, non penso ti accontenteresti di un resoconto sintetico del suo contenuto. Per questo ho deciso di offrirtelo per intero, eccetto alcuni stralci che contengono osservazioni dell'autrice che non farebbero che appesantire la storia. Comincia in modo brusco, ma noi gli riserveremo l'inizio di un nuovo capitolo.